America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La colonna sonora di Lincoln, grande film, Colossal, di Steven Spielberg. Ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, ma prima di addentrarci in quello che sarà il tema, intanto siamo all'ultimo dell'anno, quindi a tutti buon anno. E siccome il buon anno e l'anno che arriva non lo si deve fare da soli, ho con me un grande e vecchio amico che è Antonio Monda. Buongiorno Antonio. Buongiorno e mi associo agli auguri di buon anno a ecco, tutti. Ecco Antonio, intanto siamo arrivati alla fine dell'anno e ci si apre un anno nuovo. Cioè, assolutamente, ecco. Se si parla di cinema è stato un anno particolarmente ricco, direi. È stato un anno ricchissimo, allora io vorrei approfittare della chiacchierata che facciamo per capire attraverso qualche film importante che è uscito l'anno scorso, possiamo dire, ma anche se siamo ancora all'ultimo dell'anno, l'anno scorso, che secondo me ha rappresentato dal punto di vista emotivo per il paese un punto di riferimento che ha scatenato qualche cosa nella coscienza del paese e te li elenco così poi tu ci dai il là. Allora, il primo è Lincoln, con cui abbiamo aperto, un colossal, un film molto bello, insomma un film di grande spessore, che però ci dà un messaggio politico. Il muro contro muro è sempre esistito, non c'è soltanto oggi la posizione dei repubblicani contro i democratici, ma esisteva ai tempi di Lincoln, esisteva nel 1863-64, anzi allora addirittura eravamo in piena guerra civile. Poi Argo ci porta ai nostri giorni, perché la vicenda di Argo succede nel 1979, subito prima delle elezioni, ed è la storia degli ostaggi a Teheran, dell'umiliazione che ha subito l'America e di una fuga molto hollywoodiana. Infine Zero Dark Thirty, il film della Bigelow che ha vinto l'Oscar con Hurt Locker, e quindi una regista d'un grandissimo spessore anche lei, che chiude il cerchio, perché Zero Dark Thirty è la storia dell'assassinio di Osama Bin Laden visto nella sua preparazione oltre che nella sua esecuzione, e crea una preparazione straordinariamente violenta. Tutte le prime pagine dei giornali americani ne hanno parlato, perché si vede la tortura, quindi l'America e il waterboarding. Ecco, io ho finito. Intanto sei d'accordo che questi tre film... Sì, mi sembra una lettura molto acuta e importante, perché sono tre film legati alla politica. C'è da chiedersi perché tre registi diversissimi, come sono Affleck, la Bigelow e Spielberg, affrontino questo tema della politica. Verissimo quello che dici su Lincoln, ci sono due osservazioni che vorrei fare. La prima è il ribaltamento delle parti politiche, perché come sai certamente Lincoln era un repubblicano convintamente abolizionista. Il film racconta il modo in cui lui è riuscito a far passare 20 democratici che in verince erano convinti che la schiavitù non si dovesse abolire, è riuscito a convincerli con metodi, diciamolo tutti, spregiudicati, anche non troppo puliti, a passare dalla propria parte per una buona causa. Quindi è l'esaltazione della virtù politica. Una virtù che può utilizzare anche mezzi, ripeto, non proprio cristallini. Diciamo della leadership alla fine. Assolutamente. Cosa che alcuni dicono ci manca un po' dappertutto oggi. Sono d'accordo anche su questo. Dove si rivela un grande Lincoln? Nel saper convincere politicamente i suoi avversari a portargli i voti, ma nello stesso tempo a non cedere sulla guerra, perché la guerra non era del tutto conclusa, quindi lui riesce a piegare gli Stati del Sud e a far passare il famoso 13° emendamento. Il film è bellissimo. Ecco, questo volevo chiederti. Ci sono stati alcuni che hanno fatto così dei commenti, ho visto dalla critica del New York Times, che era addirittura eccessiva secondo me nell'esaltazione, ad altre che erano un po' melodrammatico eccetera. A me è piaciuto, ma vorrei un tuo giudizio sul film, su Spielberg. Guarda, io ritengo che Spielberg sia una delle poche personalità del cinema per cui il termine genio non è abusato. Detto questo, anche Spielberg ovviamente ha dei limiti. Il limite suo è quello del sentimentalismo e nei film minori, meno riusciti, si vede. In questo film il sentimentalismo affiora negli ultimissimi minuti. Per chi non ha visto il film, non voglio anticipare troppo, ma c'è un tentativo, un certo momento, di santificare addirittura Lincoln. E questo, onestamente... Beh, ecco, se devo fare un commento, secondo me il film doveva finire un po' prima dell'assassinio. Sei d'accordo? Quando c'è... assolutamente d'accordo. Beh, forse ho detto qualcosa prima. Vabbè, però lo sappiamo che Lincoln viene assassinato. Certo, infatti, ecco, mi ricordo che un critico letterario diceva: la poetica sta nel saper tagliare. Ecco, forse lì poteva. Ecco, lì poteva fare qualcosa. Detto questo, il film è straordinario, ha un avvio strepitoso, degno del soldato Ryan. Quelle scene di battaglia iniziale sono meravigliose per come sono impostate registicamente, e poi c'è un cambio di registro, cioè come se lui dicesse nei primi 5 minuti: io so fare e raccontare la guerra come nessuno, però adesso faccio un altro film. Argo, un film moderno, ma è un film che ci dà uno spaccato dell'America prima, nel momento immediatamente precedente al suo cambiamento epocale, cioè nel momento immediatamente precedente all'ingresso di Ronald Reagan. Argo è un film di intrattenimento hollywoodiano. Secondo me, se posso parlare un po' da critico, è stato preso un pochino troppo sul serio. È un film divertente, piacevole, entertaining. Beh, è anche Hollywood che celebra se stessa in qualche modo. Infatti, io ritengo che la parte più bella del film è quando parla di Hollywood più che quando parla della politica. Cioè, quando entrano in scena questi improbabili produttori e truccatori che si prestano al gioco della CIA, anche lì un gioco assurdo ma a buon fine, per carità, ecco, lì il film riesce. Quando invece diventa un convenzionale, non so come dire, thriller basato però su un fatto tragicamente vero, è un film come tanti. Ecco, però appunto è questo il punto, che c'è un elemento storico. Io mi ricordo in quegli anni, ero a New York, mi ricordo che costruivano l'IBM Building, quello sulla 57 Madison, e che i lavoratori avevano messo i giorni in cui questi ostaggi erano stati presi a Teheran, e li contavano giorno dopo giorno. Sono quasi 400, no? Centinaia di giorni che continuavano a passare. L'America, l'intera America, era straordinariamente partecipe e in qualche modo ha spianato poi l'elezione di Reagan. Ecco, c'è, al di là del film in sé per sé, c'è un momento politico in questo film. Assolutamente, ma anche qui c'è un fil rouge tra i due film. Da un punto di vista qualitativo non c'è paragone, Lincoln è infinitamente superiore, però anche in questo caso si usano mezzi, come dire, non ortodossi per un buon fine. Nel primo caso addirittura si arriva perfino a minacciare, a blandire, a corrompere, parlo di Lincoln. In questo caso non si fa nulla di tutto ciò, si fanno delle operazioni da un punto di vista etico assolutamente ineccepibili, però voglio dire, ci si camuffa da troupe cinematografica per salvare degli ostaggi. Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions? Zero Dark Thirty, l'ho detto prima, è un film, è un film che ha colpito straordinariamente l'immaginario collettivo americano. Tutti i giornali ne hanno parlato. Perché? Perché ha riportato all'attenzione il waterboarding, la tortura. E l'idea di questo film è che, insomma, è stato anche attraverso la tortura che la protagonista, questa agente segreto donna, è riuscita a ricostruire dove era nascosto Osama Bin Laden. Ecco, è stato forse un po' eccessivo l'elogio, dici, Antonio? Zero Dark Thirty. Allora, io faccio un discorso generale, però se mi permetti ritorno al fil rouge di prima. Anche in questo caso, per portare a termine, a buon fine, un'azione, in questo caso la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden, vengono usati dei mezzi più che discutibili, anzi deprecabili. Questa è la cosa che unisce i tre film. È interessante notare come si è differenziata la critica. La critica di sinistra radicale, The Nation per intenderci, stronca il film, non lo considera neanche un buon film. La critica liberal, quella del New Yorker, del New York Magazine, dice: è un film di straordinaria fattura, straordinariamente avvincente, ma nell'intimo fascista. Tutto il resto della critica lo elogia e basta. Quindi c'è inevitabilmente un approccio ideologico sul film. Ora, se mi chiedi un giudizio su Kathryn Bigelow, io ti dico, Kathryn Bigelow è una grandissima regista e io credo che un approccio ideologico sul cinema sia sempre sbagliato. Ecco, vorrei chiudere Antonio Monda, ricordiamolo, Antonio Monda, ovviamente professore alla NYU, critico cinematografico, grande organizzatore di festival cinematografici, critico sulla Repubblica. Ecco, vorrei chiederti, Antonio, un filo conduttore guardando al 2013, cioè... Non voglio parlare di Oscar, alcuni di questi film, o forse tutti e tre, prenderanno degli Oscar, credo, insomma, saranno sicuri. Secondo me se li divideranno. Però non stiamo qui a fare pronostici sugli Oscar. Facciamo un pronostico invece sul fil rouge di cui tu ci hai parlato. C'è un'America inquieta. Che capisce che bisogna sporcarsi le mani, e questo il segno. Sporcarsi le mani per migliorare il paese. Un'America che si rende conto che dentro l'uomo, in ogni uomo, c'è anche il male, e quindi quel male bisogna che sia utilizzato per migliorare le cose. Questo mi sembra il messaggio di fondo comune ai tre film. In Argo è tutto fatto in termini da commedia, ovviamente, negli altri due film invece c'è qualcosa di molto più serio, grave, che offende profondamente alcuni animi. Se tu guardi al 2013, cosa intendi per sporcarsi le mani? Cosa dovrà fare Barack Obama? Cosa dovranno fare gli americani per ritrovare quel loro equilibrio, per uscire da questa ansietà in cui si trovano? Io credo che il messaggio è quello di Lincoln, cioè utilizzare qualunque mezzo consentito dalla legge, ovviamente, per ottenere quello che la legge spesso insabbia nelle procedure o nel muro contro muro. Quello secondo me è il messaggio alto. Se mi permetti, vorrei fare un'ultima osservazione. È curioso vedere come dei registi liberal, come sono Ben Affleck e Steven Spielberg, la Bigelow ha delle idee meno di sinistra, diciamo, degli altri due, facciano dei film, non Spielberg ma certamente Ben Affleck, in cui la CIA non è più un'entità, un'agenzia simbolo del male, ma produce degli eroi. E in fondo, anche nel mondo rappresentato della Bigelow, il mondo dei servizi segreti è un mondo che agisce per il bene. Riflettiamo su come delle persone diversissime, ma tutte di impostazione liberal, rivalutano, ribaltano, rivoluzionano un modo di pensare e una rappresentazione. Non possiamo che dedurre che l'America di oggi ha un approccio assolutamente più concreto, più pragmatico, per risolvere i problemi e le tragedie interne, vedi Newton, e parallelamente i problemi delle pressioni esterne, vedi la battaglia commerciale economica con la Cina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, l'ultima canzone del 2012. Domani, 1° gennaio 2013, dunque, per trovare una canzone che così ci porti in questo nuovo anno, mi sembra che la più appropriata, una delle grandi canzoni di successo del 2012, sia Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, così chissà, qualche incertezza su questo futuro che ci attende. I didn't know I would feel it, but it's in me. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento al 2013. Goodbye and get going!